Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Un difficile compromesso tra la sicurezza e la privacy dopo i fatti di Parigi è in sostanza l'obiettivo del vertice a Bruxelles tra i ministri degli esteri europei, allargato tra l'altro in alcune fasi al segretario della Lega Araba. E allora torniamo a sentire cosa potrebbe arrivare dall'Europa. Maggiore scambio di informazioni tra 28 paesi, controlli più serrati alle frontiere esterne di Schengen, un forte impegno politico e culturale e ancora più dialogo, più collaborazione con i paesi arabi. Queste le linee guida per combattere il terrorismo, principi condivisi dai ministri degli esteri europei riuniti attorno a un tavolo a Bruxelles per capire quali misure concrete poi potranno essere approntate. Di certo si vuole dare un nuovo impulso alla collaborazione tra servizi di intelligence e soprattutto l'idea è quella dell'istituzione del registro comune dei nomi dei passeggeri dei voli, il cosiddetto PNR, misura bloccata da tempo a causa di problemi legati alla privacy. Su questo il ministro degli esteri italiano Gentiloni è stato chiaro. C'è un equilibrio delicato da trovare tra privacy e sicurezza, ma non c'è dubbio che oggi dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza senza rinunciare alle libertà europee. Dunque non più di una presa di posizione politica quella che arriverà oggi, alla quale dovrà seguire un voto del Parlamento europeo, ma i ministri degli esteri sono impegnati anche su altri fronti, come la collaborazione con la Turchia, paese cerniera tra Europa e territori occupati dalle forze dell'ISIS. In generale, secondo l'alto rappresentante per la politica estera Mogherini, dialogo e collaborazione con i paesi arabi sono una priorità per combattere il terrorismo, perché il terrorismo, dice, non è un problema tra Europa e Occidente e Islam. It is not an issue between Europe or the West and Islam. Terrorist attacks are targeting most of all Muslims in the world, so we need an alliance, we need a dialogue. Ed è per questo che Federica Mogherini, prima della riunione di oggi, ha voluto incontrare il segretario generale della Lega Araba, Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Unione Europea che ha deciso anche di presentare ricorso contro la recente decisione della Corte di Giustizia Europea di escludere Hamas, il movimento islamico palestinese, dalla lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione Europea. L'Europa lo rivuole nella lista e proteste arrivano intanto dai palestinesi che accusano Bruxelles di preconcetti. Europa che guarda ad Atene questa settimana, ormai conto alla rovescia per le elezioni greche, la vittoria del partito di sinistra Syriza assume contorni sempre più nitidi. Il cosiddetto sondaggio dei sondaggi, vale a dire la media degli ultimi dati raccolti da 12 istituti demoscopici di Atene, dà il partito di Alexis Tsipras al 34,7%, ad un passo ormai brevissimo dal 35%, la soglia obiettivo che permetterebbe a Tsipras di conquistare la maggioranza assoluta dei seggi, così poter negoziare da solo con la Troica, l'Unione Europea, il Fondo Monetario e la BCE. E a parlare anche il commissario agli affari economici, Pierre Moscovici. La Commissione Europea ha ribadito stamani che nuove regole di bilancio più flessibili non significano per l'Italia carta bianca sul fronte del risanamento delle finanze pubbliche. Incontrando alcuni giornalisti qui a Bruxelles, il commissario agli affari economici, Pierre Moscovici, ha spiegato che l'impegno italiano di riduzione del deficit nel 2015 è dello 0,25% del prodotto interno lordo. In questa occasione l'uomo politico francese ha sottolineato che entro la fine di questa settimana il governo italiano deve presentare alla Commissione europea analisi di bilancio e programma di riforme da utilizzare in vista della pubblicazione all'inizio di febbraio di nuove previsioni economiche. Moscovici ha assicurato che il suo obiettivo è di essere costruttivo, aperto al dialogo, ma nel rispetto delle regole e della necessità di risanare i conti pubblici, soprattutto nei paesi con un elevato indebitamento. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Per ora ci fermiamo qui, ancora un saluto da Anna Migliorati, vi ricordo l'Europa vi aspetta come sempre, effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.